Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Quella settimana di novembre si chiude con perdite professionali pesanti e sentimentali ancora peggiori, visto che la mia fidanzata aveva pensato bene di lasciarmi. È strano come quando qualcosa vada storto si porti dietro anche il resto. Non so come succeda, forse tutte le cose nel mondo però sono collegate tra loro. Come quel detto che dice che un battito d'ali di farfalle in Europa provoca un tifone in Cina. Mi chiamo Buddy Fox, ho 37 anni, vivo a Milano, ho la passione per la borsa, per i mercati finanziari, scrivo e vivo continuamente sulle montagne russe. Per non finire travolti dalle valanghe, bisognerebbe imparare dagli stambecchi. Questi animali sanno come muoversi benissimo, sanno dove non è opportuno andare e soprattutto aspettano che la neve sia ben assestata. Alcuni ricercatori per la neve e per le valanghe, soprattutto, hanno indagato sul comportamento di alcuni gruppi di stambecchi in una decina di comprensori e si è visto che gli stambecchi si muovono nel raggio di soli 50 metri dai loro ripari, anche per più giorni o una settimana, dopo nevicate abbondanti. E se d'estate invece il raggio d'azione si estende su un'area di magari 20 km quadrati, d'inverno si limita a massimo 300 metri di distanza dalle loro tane. E anche nella scelta dei pendii gli stambecchi sono oculati. Mentre nei mesi estivi vengono frequentati pendii di diversa inclinazione o esposizione, d'inverno no. D'inverno sono utilizzate quasi esclusivamente pendici esposte a sud, sud-est o sud-ovest, comunque a sud, e che abbiano almeno una pendenza compresa tra i 30 e i 45 gradi. E questa predilezione è dettata dal fatto che lo stambecco affonda e si sposta con difficoltà sulla neve, per cui le zone fortemente inclinate e ben irradiate dal sole sono quelle che si liberano più rapidamente dalla neve. I versanti a sud, e lo sanno bene tutti quelli che prevedono le valanghe, sono anche quelli sui quali il manto nevoso si stabilizza prima. Quelli a nord, invece, possono restare pericolosi per periodi lunghissimi, con il freddo che addirittura può incrementare nel tempo la mancanza di coesione tra i cristalli di neve. Ecco perché per prevenire il rischio di valanghe bisognerebbe osservare gli stambecchi. Bisognerebbe curare le loro mosse, studiarle e poi applicarle anche alla nostra vita, anche alla vita di tutti i giorni. Perché forse un modo per evitare che la valanga si stacchi esiste. 349-238-6666 oppure voi siete qui @radio24.it. Si parla di due cose oggi, che poi è una sola. Si parla di crisi e si parla di valanghe. Sapete che c'è sempre un momento preciso che nessuno di noi conosce, nessuno di noi sa prevedere, però più tardi capiremo meglio perché. C'è sempre un momento preciso in cui si stacca la valanga, che poi è un momento preciso in cui comincia una crisi, qualunque essa sia, che sia una crisi appunto economica, che sia una crisi sentimentale, che sia una crisi personale. Tutto succede sempre a un certo punto, quando la temperatura si alza un po', quando qualcuno fa qualcosa o quando qualcuno semplicemente immagina qualcos'altro. Non so se in questo momento vi trovate nel pieno di una crisi, non so se ne siete usciti o se avete la sensazione che stia per arrivare. Oggi però vorrei con voi parlare di quel momento esatto lì. Fermatevi un secondo, come fate di solito. Fermatevi anzi 5 secondi e provate a ricordare della crisi più grossa che avete vissuto o della crisi che state vivendo, qual è stato il momento in cui la valanga si è staccata. E ve ne siete accorti, magari non ve ne siete accorti subito, però poi ripensandoci avete capito che è stata la volta in cui avete detto quella cosa, oppure la volta in cui avete visto una cosa particolare, oppure la volta in cui semplicemente qualcuno è entrato, magari a gamba tesa su di voi o sul vostro lavoro o sulla vostra relazione, e allora lì la valanga si è staccata, non per colpa vostra, insomma la colpa vostra era perché quella valanga l'avevate accumulata, però qualcuno ha fatto in modo che si staccasse quella valanga. 349-238-6666, quando vi siete accorti che quella valanga lì è venuta giù, che quella crisi è cominciata, l'attimo esatto, perché un attimo esatto c'è. 349-238-6666. Elisa mi scrive: io non ricordo la mia ultima valanga. So che ultimamente ho presentimenti un po' sinistri, come se avvertissi scosse di terremoto, e posso solo dire che dopo un po', a forza di vedere valanghe venire giù, ci si rassegna e si comincia a costruire sui detriti che rimangono a terra. Questo è un bel modo per vedere le cose. Giulia, la mia crisi attuale, Giulia c'è dentro, la mia crisi attuale era annunciata da tempo, ma nessuno se n'era accorto. E valanga è esattamente quello che è successo in questi giorni. Sono stata travolta dalla mia rabbia che covava da tempo sotto la cenere. Però non so so come, scrive, mi sento molto più forte ora, mi sento meglio. È una crisi che ha lasciato un po' di tristezza, ma che mi ha fatto bene. 349-238-6666, l'avevamo chiamato da un po' di tempo, da un po' di tempo no, però mi ricordo che con Tiziano ne avevamo parlato del fatto che, visto che arrivano racconti di ogni tipo, e ve ne siamo grati di questo, perché i racconti arrivano sempre di più e arrivano sempre più aperti su diversi argomenti e su diverse tematiche. Veramente a valanga, si è staccato, evidentemente a un certo punto di questa trasmissione si è staccato un pezzo ed è venuta giù. Però ci sembrava strano che nessuno, tra l'altro degli ascoltatori di questa radio, raccontasse qualcosa che avesse a che fare con questo periodo storico che stiamo vivendo e con questa, la dico un'altra volta, poi non la uso più questa parola, con questa crisi che si sta vivendo da 3 anni a questa parte. L'abbiamo un po' chiamata e è un po' arrivata. È arrivato un racconto che, come avete sentito, di questa persona che si chiama Buddy Fox. Non si chiama Buddy Fox, evidentemente. Dopo farò di tutto per estorcergli il vero nome, perché Buddy Fox sembra il nome di un personaggio dei fumetti. Forse è il nome di un personaggio dei fumetti. No, no, no, sarà inventato. No, no, quello è Bugs Bunny. Che c'entra? C'entra niente. Scusa Paolino, dico robe che so che ti fanno accapponare la pelle. Insomma, la puntata sulla crisi e sulla valanga che viene giù è arrivata ed è questa qua. Se voi la state vivendo, qualunque crisi essa sia, e avete voglia di ricordare, basta un sms, non è che dovete raccontarmelo, così me la scrivete e poi non ci pensate più. Il momento esatto in cui vi siete accorti che la valanga veniva giù, 349-238-6666. Questa invece è la valanga di Buddy. L'aria si faceva sempre più pesante, ormai era quasi soffocante, frenava il mio respiro. Autunno 2008, cielo terso, poche luci e una coltre di nubi all'orizzonte, dovute soprattutto all'inquinamento. Sembrava la raffigurazione del cielo sopra Pechino, e invece quell'inquinamento era più che altro il mio presente e forse il mio futuro. Il mondo crollava sotto il peso della crisi finanziaria. Il mio lavoro era collegato a quel mondo e quella crisi rischiava di risucchiare tutti i sogni che avevo certosinamente coltivato in molti anni. Le perdite nel mio lavoro si facevano pesanti, il bilancio affogava nell'inchiostro rosso, le notti trascorrevano affollate dal frastuono di mille pensieri e in tutto questo il telefono taceva, come stregato. Quello era il cattivo presagio di qualcosa che doveva accadere o che il mio subconscio pregava che accadesse. Per chi lavora sui mercati ogni cosa è inaspettata. Difatti io penso sempre che la cosa più importante non è guadagnare, ma esserci sempre, essere sul pezzo, essere in trincea. Quindi se sopravvivi a ogni battaglia hai già ottenuto un grande risultato. Da 4 giorni non sentivo la collega dello studio per cui lavoravo. Silenzio. Mentre sui mercati le sciabole si incrociavano nel frastuono delle lame. Quella settimana di novembre si chiude con perdite professionali pesanti per me e sentimentali ancora peggiori, visto che la mia fidanzata aveva pensato bene con sensibilità e con tatto di lasciarmi. È strano come quando qualcosa vada storto si porti dietro anche il resto. Non so come succede esattamente. Forse è che tutte le cose nel mondo in qualche modo sono collegate tra loro. Un po' come quel detto, no? Che dice che un battito d'ali di farfalle in Europa provoca un tifone in Cina, più o meno. Ecco, non lo so se è così. Però la mia vita nell'autunno di 3 anni fa è cambiata in modo traumatico, da un momento all'altro. Proprio da un giorno all'altro. Sono le 18, è venerdì 20 novembre 2008. Il telefono si illumina, appare una busta, una lettera chiusa, ma è come se l'avessi già letta. È un po' come quando tentavamo di intravedere, grazie alla luce del sole o di una lampada, cosa contenessero le buste di persone a noi care. Insomma, apro il messaggio. So già, forse lo spero, che il domino del mio destino ha già avviato la caduta dei tasselli, quelli che compongono la mia vita. La palla di neve si sta ingrossando e potrebbe diventare una valanga. Apro il messaggio e leggo. Ciao, non ti ho chiamato in questi giorni perché ho troppe preoccupazioni. Penso che anche tu non stia tanto bene, mi dispiace. Spero di risentirti presto. Appunto. Aprite la botola, sto arrivando. È come se d'improvviso il pavimento fosse scomparso. Sotto di me il vuoto e il buio, tutto quello che può spaventare un uomo. Per me era finita. Non solo ero senza un lavoro, ma tutti i miei sogni venivano bruciati nel falò dell'imprevedibilità della vita. Quando ti capita una crisi, la maggior parte delle volte in questo lavoro o magari la percepisci prima degli altri. Siamo sempre incomprensibili rispetto alle altre persone, rispetto anche ai miei amici che vivono la quotidianità, e invece io devo vivere quello che succederà fra magari una settimana, un mese, quindi so di vivere in un altro pianeta, di essere alienato. Avevo perso non solo un lavoro, il mantenimento per continuare a lottare per i miei sogni, ma anche una famiglia, la mia famiglia. E ora cosa avrei fatto? Dove mi avrebbe portato questa crisi? Come avrei ripagato i miei debiti? Chi avrebbe avuto più fiducia in me? E io, soprattutto, avevo ancora fiducia in me. Era un KO da cui però ci si poteva risvegliare, rialzare, si poteva tornare a combattere. Era difficile, da lì, riuscire a vederlo, ma quello che in un momento di panico e sconforto poteva essere un'enorme solitudine umana e professionale, poteva trasformarsi nella chiusura di un capitolo. Non era facile, dicevo, vederlo da lì, ma quello era l'unico modo per intravederne uno nuovo. Sapete come funziona una valanga? Allora, innanzitutto cos'è esattamente una valanga? Una valanga è un fenomeno naturale che si verifica quando una grande massa di neve o di ghiaccio improvvisamente si stacca dalla montagna e inizia a scivolare a valle, travolgendo tutto quello che incontra sul proprio cammino. La velocità a cui viaggia la neve che si stacca raggiunge e delle volte supera i 300 km all'ora e la massa aumenta notevolmente durante questa discesa a valle, fino a raggiungere dimensioni gigantesche e soprattutto una forza distruttrice incredibile. L'aumento della massa si verifica perché la valanga, precipitando, raccoglie con sé e stacca anche la neve che incontra sul proprio cammino, trascinandola con sé in questa corsa folle lungo il fianco della montagna. Non so se vi è mai capitato di vedere una valanga. Non in TV, eh? No, dal vivo intendo. A me è capitata di vederla su una pista da sci. Non lungo la pista da sci, ovviamente, altrimenti non sarei qui a raccontarlo. L'ho vista in un canalone, dall'altra parte della valle. E sapete come me ne sono accorto? Me ne sono accorto per il rumore. Perché una valanga che scende lungo il fianco di una montagna fa un rumore inimmaginabile. Cioè, è inimmaginabile se si considera che alla fine è solo pulviscolo di acqua ghiacciata. Ecco, e ogni volta che a casa, con amici, qui in radio o alla TV, io sento usare la parola crisi, a me viene in mente quella cosa lì. Mi viene in mente il rumore e la sensazione di inarrestabilità che ho visto in quella specie di onda bianca che cade da una montagna e travolge tutto, senza rispetto, alberi, rocce, altri alberi. E case fortunatamente no, non ce n'erano, perché di solito non si costruiscono case laddove una valanga può cadere. Ecco, questo però è un accorgimento che nella vita di tutti i giorni non sempre prendiamo. Cioè, non sempre quando lavoriamo, quando viviamo semplicemente la nostra vita, stiamo così attenti da non costruire case laddove potrebbe scendere una valanga. E il più delle volte non lo facciamo perché pensiamo che una valanga lì non potrebbe proprio cadere. Perché non prendiamo nemmeno in considerazione l'ipotesi. Perché in certi casi non sappiamo nemmeno cosa sia una valanga. Perché quando siamo travolti dal fascino del lavoro, magari di un lavoro nuovo, o del denaro anche, o dell'amore, non prendiamo misure di sicurezza, ma è giusto non farlo, no? Accumuliamo le cose come se quella fosse l'unica ragione di vita. Più abbiamo fame, più mangiamo e meno ci sentiamo sazi. Poi però arriva un momento impercettibile, eh? Un momento in cui si alza la temperatura, anche di pochissimo, anche solo di mezzo grado. Oppure, che so, arriva un'onda d'urto che è provocata da qualsiasi cosa. Ecco, e all'improvviso, senza preavviso, senza dirlo a nessuno, si crea una crepa minuscola. E la valanga viene giù. E non viene giù per gradi. Non viene giù solo la parte inutile, no? Quella in sovrappiù. Quella che avevamo accumulato in maniera dissennata. No. Viene giù tutto. Sin dall'origine. Sin dall'inizio. Fin nella parte buona. E io non lo so come nasca una crisi economico-finanziaria globale devastante come quella che stiamo vivendo da 3 anni. Non so nemmeno perché nascano le crisi personali o di coppia. Non ho mai capito quali siano le dinamiche che stanno alla base di queste crepe che si formano in strutture che fino a un attimo prima sembravano solide. Quello che so però è che l'effetto non è gentile, non è dolce. L'effetto è sempre devastante, sempre totale. Perché ogni crisi è come una valanga che non dà scampo e non chiede permesso, ma soprattutto non dà alcun preavviso. La cosa però che ho imparato andando un pochettino in montagna e che un po' mi rincuora è che nel 90% dei casi, nel 90% sono tanti, nel 90% dei casi è proprio l'uomo a innescare la cascata della neve. Come a dire che le valanghe non è che vengono giù proprio per caso, ma che per quanto improvvise c'è sempre una causa che le scatena. Questo magari non mi mette al riparo dalla crisi e tantomeno dalle valanghe, ma almeno so che se è colpa mia posso trovare un modo per muovermici, senza per forza fare franare tutto. Laura mi scrive: la valanga è venuta giù quando ho detto ai miei che mi sposavo. Ero appena laureata e senza lavoro, ma dopo 4 anni la valanga dei primi mesi è diventata una splendida occasione per ritrovare i miei genitori. E poi ancora, la valanga è venuta giù a cena del 13 marzo, il giorno del mio compleanno, è iniziata da allora e non è ancora finita. Però non mi spiega cosa si tratti. E poi, forse la più terribile che sia arrivata, non è firmata. La valanga si è staccata nel momento in cui mio padre mi ha chiesto l'affitto per la mia stanza. Scusa, la rileggo un secondo. La valanga è venuta giù nel momento in cui mio padre mi ha chiesto l'affitto per la mia stanza. Chi è tuo padre? Chiamaci, ti prego. Facci parlare con lui. Dacci il suo numero. Troviamo un modo per recuperare questo affitto della stanza. Hai proprio bisogno dell'affitto della stanza di tuo figlio? Troviamo un modo, magari in qualche modo lo risolviamo. Non lo so se possiamo trovarlo noi, ma magari lo trova lui. Buddy Fox, pronto Buddy? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Nonostante tutto siamo ancora in piedi. Bravo, innanzitutto io ti devo chiedere scusa perché credevo fosse un personaggio nei fumetti. Invece, come al solito, gli ascoltatori di Radio 24, precisi e puntuali, mi scrivono che è il personaggio. Dillo tu che è più facile. È il film di Wall Street, è uno dei protagonisti del film Wall Street. Ma è quello che è fatto da quale attore? Charlie Sheen. Da Charlie Sheen, ok. Senti Buddy, io non ti chiederò il tuo nome perché se ti fai chiamare Buddy Fox vuol dire che non vuoi darmi il tuo nome, però qualche cosa te la voglio chiedere. E in sostanza è abbiamo capito qual è stato il momento esatto in cui si è staccata la tua valanga, no? Che sono state ma qual è il giorno esatto di 3 anni fa in cui è venuto giù tutto? Parlo della crisi, no? Che è partita negli Stati Uniti. Goldman Sachs, cioè il giorno in cui Proprio l'inizio dovrebbe essere marzo 2008, quando Bear Stearns praticamente si dichiara fallita. Ok. Quindi è la prima banca che fallisce. Poi, vabbè, 15 settembre 2008 Lehman Brothers. Ok, quindi insomma la prima in primavera, poi verso la fine dell'estate. Invece il tuo momento esatto era quello che mi raccontavi, giusto? Che era il 20 novembre. Esatto. Era il 20 novembre. Senti, come ti sei ripreso da quella valanga, Buddy? Ma guarda, è come da una fossi scivolato da una liana e mi fossi appeso ad un'altra, perché magicamente leggendo alcune persone nel mio blog, mi hanno chiesto una consulenza. Una consulenza. E quindi lo so che odio i consulenti, difatti. No, io non altro che, adoro i consulenti. No, altro che, figurati, adoro questo modo che hanno questo modo di lavorare, lo trovo straordinario, il fatto di trovare un modo per semplicemente passare conoscenza. Senti, Buddy, dimmi come funziona una tua giornata di lavoro, cioè che cosa fai esattamente? Che cosa sei tu? Me lo dici, un trader? Adesso faccio solo il trader e scrivo in un giornale. Ok. E l'evoluzione è stata anche questa, che improvvisamente tra le tante email che avevo spedito a tutti i giornali c'è stata una giornalista che ha voluto darmi fiducia e mi ha aperto una rubrichetta, quindi nel mezzo della crisi si è aperto un altro spiraglio di luce. Ok, diciamo. Senti, e come la tua giornata in cosa consiste? Perché tu dicevi prima, durante il racconto dicevi che ti senti scollato rispetto alla vita dei tuoi amici perché vivi una settimana avanti, no? Devi guardare sempre come 3 semafori in là per vedere se c'è un incidente. Mi ricordo che in una puntata hai detto faccio il DJ, una cosa del genere, quando lo dicevi alle persone, le persone ti dicevano ma il lavoro reale qual è? Sì, è lo stesso. Ecco, è lo stesso per me quando io dico faccio l'operatore di borsa, ah sì, giochi in borsa, però di lavoro vero cosa fai? Questo è più o meno... Senti. Io leggo tantissimi giornali, ho vissuto anche nel periodo di crisi... da cui me ne sono andato da Milano, ho vissuto con mia nonna mi ha sopportato perché c'è una stanza strapiena di giornali, perché io conservo articoli, leggo molti giornali. Cioè, quando è successa questa cosa sei andato a vivere da tua nonna? Esatto. Ah, senti, però non mi hai detto che cosa c'è, tipo fai degli orari strani perché devi controllare Tokyo, New York? Ma c'è stato un periodo, il periodo di crisi, ad esempio, io mi svegliavo al mattino e praticamente... era un punto di domanda, perché poteva telefonare la banca e dirmi devi chiudere delle posizioni, quindi alle 7:30 del mattino, e quindi ogni mattina era un punto di domanda, ti alzi, leggi i giornali, guardi le quotazioni, ti fai un'idea di come può andare la giornata, okay. Se è una giornata da seguire la segui, stai davanti al monitor, se no magari anche esci io rifletto molto, cioè senti Buddy, dimmi delle idee. Dimmi quanto hai guadagnato oggi? Non lo sai? Oggi non ho guadagnato niente, perché io adesso sono fermo, ho fatto comprare, sono okay. Sicuro che per fine anno va bene. E allora, poi ti saluto Buddy, perché siamo già lunghissimi, sì. Visto che lo fai di mestiere, dai un consiglio qualunque a qualcuno che stia ascoltando in questo momento e abbia voglia di fare di prendersi un rischio, che ne so. Lo so che è dura, però se non ora quando? Bisogna comprare. Buddy, grazie mille, in bocca al lupo per tutto e grazie per il tuo racconto e la telefonata. Grazie Matteo. Ciao, grazie. Adesso ciao. La borsa, appunto, e poi voi siete qui. This economic crisis is like a cancer. If you just wait and wait thinking this is going to go away, just like a cancer is going to grow and it's going to be too late. What I would say to everybody is get prepared. Voi siete qui. C'è veramente poco da dire riguardo alla foto che ci ha mandato Buddy Fox e che trovate sempre sul sito di Radio 24, perché evidentemente lui voleva a tutti i costi mantenere l'anonimato e quindi è una foto di spalle. Potrei stare ore a descrivervi una foto di spalle di una persona di cui si vedono i capelli, una camicia e un paio di occhiali, però credo che non lo farò. Forse era più facile avere una foto di Charlie Sheen, probabilmente. 16:34, questa è Radio 24, oggi è mercoledì 2 di novembre. Oggi è il 2 di novembre, oggi è il giorno dei morti, Ne abbiamo parlato ieri di morti, e invece oggi. Però oggi è finito, no? Non c'è, la gente è al lavoro. E infatti la radio si è di nuovo affollata. Oggi si parla di crisi, si parla di quando è venuta giù la vostra valanga. Però prima di farlo io voglio leggere questo messaggio, perché la storia della stanza affittata in casa ai propri genitori, che a me aveva, non dico sconvolto, però mi aveva un po' stupito, pare che non sia l'unico caso, perché mi scrive qualcuno che è anonimo: io da 10 anni pago tutti i mesi l'affitto della mia stanza, non ci vedo nulla di male, ma perché non prenderla fuori? Cioè, perché non prendere un'altra stanza allora? Cioè, perché non uscire di casa, ad esempio? Sì, certo, ovviamente, Tiziano dice perché c'è qualcuno che ti fa la cena. Però qualcuno mi scrive: seguono li adoro, questi li adoro proprio, questi messaggi che non si capisce da dove arrivano, di cosa parla. Il messaggio è: seguono la legge dei frattali. Io credo che sia le valanghe probabilmente, o le crisi, non lo so, o forse è la stessa roba, però non so quali siano le leggi dei frattali. Sono delle leggi fratte, gente, ok. 349-238-6666 se state vendendo o comprando qualcosa. Tra l'altro Aria mi scrive: Deborah Rosciani stamattina ha detto che la crisi è iniziata nel 2007, e se l'ha detto la Rosciani mi ci fido ciecamente. Se lei dice che è cominciata nel 2001, è cominciata nel 2001. Se è cominciata nel 2002, è nel 2002. Tra l'altro mi ricordo che a proposito del 2001 e di crisi iniziate con crolli devastanti, esiste un film che si chiama The Corporation, che magari avrete visto, che è un documentario anche molto lungo che parla proprio... Oh, mi sono ricordato del titolo di un film nel frattempo, no, quello sulla Enron era un altro caso, era un film che è sulla Enron. Questo invece è un film che si chiama The Corporation, che parla di come in teoria le grandi multinazionali gestiscano le cose nel mondo. C'è un'intervista a un certo punto a un trader finanziario in cui gli chiedono gli chiedono di che cosa si ricorda dell'11 settembre e lui con un sorriso apertissimo sul viso dice: guarda, mi ricordo questa cosa, appena ho sentito la notizia la prima cosa che ho pensato è stata oddio chissà che disastro, la seconda cosa che ho pensato è stata chissà quanto sarà arrivato l'oro. 349-238-6666, io so esattamente quando la valanga verrà giù ed è quando lo rivedrò, lo travolgerà la valanga e lui non potrà mettersi in salvo dal mio desiderio. Siamo su di erotismo qui ragazzi, eh? Però chiedevamo la tua valanga, non la sua. Io me le vado a cercare le valanghe, ogni volta mi salvo ma vorrei non finirci più. Poi ce n'era uno simile che dice: io vivo per le valanghe, consciamente o meno ne provoco di continuo, perché in quel momento lì, quando il mondo crolla sotto i miei piedi, mi sento davvero vivo. Paolo, senti di vivo, occhio solo a non rimanerci sotto. Quando preparavamo questa puntata e mentre leggevo il racconto di Buddy, a me è venuto in mente un episodio legato all'università, quando il mio professore di economia aziendale, economia politica, di cui ho già parlato e che ormai il fu Carlo Ricciardi, ci ha lasciato un paio d'anni fa, credo, ci parlò della bolla dei tulipani. È una cosa che chiunque abbia studiato economia probabilmente conosce e si ricorda, perché è stata la prima bolla speculativa della storia del capitalismo, probabilmente, ed è una roba che risale al 1636-1637, che accade in Olanda, ovviamente, dove a un certo punto i bulbi dei tulipani cominciano ad avere dei prezzi, ad essere scambiati per dei prezzi elevatissimi. Vi faccio un esempio: un singolo bulbo poteva costare anche un migliaio di fiorini olandesi, dove il reddito medio all'epoca annuo era di 150 fiorini olandesi, mentre un bulbo veniva quotato 1000 o più, e addirittura erano scambiati con terreni, con animali vivi e con delle case, ed erano proprio diventati, venivano scambiati nelle borse valori di diverse città olandesi. Questa cosa è continuata a montare per uno o due anni, fino a che a un certo punto tutto è venuto giù. Il 5 febbraio del 1637, nella cittadina olandese di Alkmaar, si tenne un'insolita vendita all'asta. Nelle sale era convenuta una folla di compratori, conoscitori e benestanti. Le offerte, fin dall'inizio sostenute, divennero in breve tempo deliranti. In un'epoca in cui un'intera famiglia viveva per un anno con forse 300 fiorini olandesi, i lotti venivano battuti a 2.000, 3.000, perfino 4.000 fiorini e più. Nessuna meraviglia avrebbero suscitato quelle cifre se i 100 pezzi fossero stati opere d'arte o pietre preziose, ma non lo erano. Erano invece bulbi di tulipano. Cosucce insignificanti, anonime, prive di un vero valore intrinseco, che semmai somigliavano a qualcosa era delle cipolle. E ancora più sensazionale, chi aveva pagato somme così ingenti per delle semplici piante non aveva nessuna intenzione di coltivarle. I bulbi venduti alle aste erano rari e gli splendidi fiori che ne nascevano erano ricercatissimi. Da più di due anni i prezzi aumentavano a ritmo rapido e costante. Perché non avrebbero dovuto continuare a salire? Purtroppo, calcoli sbagliati. L'asta di Alkmaar si svolse all'apice di uno degli episodi più bizzarri e memorabili della storia, la febbre per i tulipani, che tra il 1636 e il 1637 contagiò gli olandesi e fu l'ultima e la più clamorosa espressione di una ventata maniacale. Quasi immediatamente dopo, segnali premonitori e all'improvviso arrivarono e il prezzo dei bulbi cadde. Nell'arco di qualche settimana i tulipani precipitarono ad appena un decimo della precedente quotazione e spesso anche al di sotto. Entro la fine del febbraio 1637, alcuni che fino a pochi giorni prima erano stati, almeno sulla carta, fra i più facoltosi cittadini dei Paesi Bassi, persero tutte le loro ricchezze. E quanti avevano investito massicciamente in bulbi nel momento in cui la mania era al massimo, si trovarono a fronteggiare la bancarotta e la rovina. Quel pezzo che vi ho letto un attimo fa è tratto da un libro molto interessante di un autore che si chiama Mike Dash, e si intitola La febbre dei tulipani. Racconta esattamente quella cosa lì, racconta la storia del crollo della prima bolla speculativa della storia. È un libro molto divulgativo, nel senso che appunto anche per gente che non ne capisce niente come me ha raccontato qualcosa. Appunto me ne parlò prima il buon Ricciardi e poi Tiziano l'altro giorno quando leggevamo il racconto di Buddy. Io ringrazio quelli che continuano a scrivere e anche faccio gli in bocca al lupo a quelli che come Gianluca mi scrivono la mia valanga si è staccata questa mattina e sto ancora rotolando, oppure la valanga è venuta giù alle 4 di mattina qualche settimana fa, mi sono svegliata e improvvisamente ho capito che per 13 anni ho solo voluto illudermi. E poi Gaetano da Vicenza: nel 2007 acquistai 15.000 euro di azioni, vendi compra, ora ne ho 3.200. Wow. E poi Francesco da Monza: sono in piena crisi scolastica. Non so che classe faccia Francesco da Monza, ma sono sicuro che ne uscirò molto bene. Bravo Francesco, anch'io sono sicuro che ne uscirai molto bene, magari con l'aiuto di un professore di, come si chiama, che ti dà ripetizioni ad esempio, oppure no, oppure semplicemente contando sulle tue forze. Figurati che ci sono intere squadre di calcio che sono in una grossa crisi, ma ne usciranno e loro ne sono sicure, e io anche. Ciao Matteo, la mia valanga si è staccata un anno e mezzo fa, lasciandomi dietro una separazione con morti e feriti. Vabbè, morti e feriti immagino che sia figurativo. Sommersi, ma i sopravvissuti se la cavano e riprendono la loro vita a piene mani, con più grinta e più forza. Ciao Noemi, in bocca al lupo anche a te. È un po' la solita storia dei sommersi e dei salvati, no? Cioè la solita, quella storia lì, quelli che in qualche modo per indole ci rimangono sotto e quelli che invece per indole e in qualche modo ne escono. 31 ottobre 2011. Cioè, ma l'altro ieri praticamente. Dopo qualche mese un po' così, mia moglie mi ha detto che è finita. Eravamo in terrazzo, fumando una sigaretta. Abbiamo un bambino di 2 anni. Sono stato come investito da un soffione di vapore di un geyser, improvviso. Sono ancora lì, con la faccia da pesce lesso. Ciao Matteo, credo che sia lui e non io. Adesso vabbè, in bocca al lupo anche per questo. Io ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile anche questa puntata di oggi, che sono Paolino Corleoni, Tiziano Bonini, Margherita Ina e Stefano D'Andrea. Continuate a mandare i vostri racconti che continuano ad arrivare, ma sono preziosissimi per noi. Vi ricordo il sito è Voi Siete Qui, e il sito, l'indirizzo, Voi Siete Qui, @radio24.it. C'è un profilo Facebook del programma, basta che clicchiate su mi piace e avete accesso a tutte le cose che carichiamo, i video, le canzoni e quello di cui si parla in giornata. Si chiama Matteo Caccia, io sono qui su Facebook. Abbiamo quasi raggiunto una quota, ma a noi non ci piace parlare di quante persone abbiamo, giusto Tiziano? Non ci piace farlo. La storia di oggi era quella di Buddy, parlava di crisi e di valanghe. Quella di domani è la storia di Alberto e parla di fiducia. E allora scendiamo un po'. La corda fissata sullo zaino pende troppo da un lato, rischia di farmi inciampare. Finalmente vediamo il tetto giallo del bivacco. Sono ancora vivo, siamo ancora vivi. Patrizia è arrivata qualche secondo prima di me. Ci guardiamo increduli perché è come se fossimo nati per la seconda volta. Il temporale è scomparso, come era arrivato. E tutto torna alla normalità, come se nulla fosse successo.